GR24, il sole 24 ore. Si commuove Piero Grasso presentando la sua candidatura con il PD. La mia è una scelta di vita, dice. Oggi nuovo incontro Monti centristi. Bloccate le adozioni dei bambini russi da parte di genitori americani. Putin ha firmato la legge. Titoli di Stato, collocate 5,9 miliardi di BTP, tassi in rialzo, oggi borse in calo. A Veronica 3 milioni al mese da Berlusconi, ma niente case, si conclude così la causa di separazione. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. La pagina politica in primo piano. Il PD presenta la candidatura del magistrato Piero Grasso, come sentiremo fra pochissimo, mentre proseguono le manovre intorno al premier Monti. Mario Monti è a Roma, dove oggi dovrebbe vedere i leader politici, gli esponenti della società civile e i ministri pronti a seguirlo nella sua discesa in campo. Il luogo resta segreto, ma quasi certamente, per evitare polemiche, l'incontro non si terrà in una sede istituzionale. I nodi da sciogliere invece quelli sono noti, innanzitutto la questione liste. Il professore spinge per una lista unitaria, una scelta quasi obbligata al Senato per superare la soglia di sbarramento. L'UDC, soprattutto alla Camera, preferirebbe invece la soluzione di una serie di liste collegate, sia per raccogliere più consensi, sia per avere più voce in capitolo sulla scelta dei candidati, questione sulla quale Monti vorrebbe comunque avere l'ultima parola. Tutto dovrà essere definito entro la prima metà di gennaio. Il premier dimissionario nel frattempo sembra aver incassato il sostegno della Chiesa, che appare invece sempre più distante da Silvio Berlusconi. Ieri l'Osservatore Romano ha definito nobile la decisione di Monti di impegnarsi in politica, mentre oggi l'altro quotidiano cattolico, Avvenire, sottolinea l'alto tasso di inconcludenza che ha caratterizzato i governi del Cavaliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il PD vuole essere un'infrastruttura per la riscossa civica del paese, perché la politica da sola non arriva e ci vogliono energie civiche. Così il segretario del PD Pierluigi Bersani, che stamattina ha presentato la candidatura di Piero Grasso come capolista alle politiche. Il mio è un progetto di rivoluzione del sistema giustizia che va affrontato in modo graduale, ha detto da parte sua Grasso. Sentiamolo. Io ho finito la mia esperienza, entro in politica. E ecco, è scoccata quella scintilla che mi ha fatto prendere questa decisione. È una decisione radicale della mia vita sofferta. Non vi nascondo che prima di firmare quella domanda di dimissioni sono stato alcuni minuti con la penna e poi mi tremava la mano. Proprio perché è una scelta di vita. Il punto di Stefano Folli. Se sarà confermato, come sembra, che il procuratore antimafia Grasso lascia la magistratura per entrare in Parlamento e la lascia, cioè in modo definitivo, non si limita a un'aspettativa, se questo sarà confermato, allora sarà stata scritta una bella pagina che cambia quel certo costume italiano secondo cui l'ingresso in Parlamento per molti magistrati è come le porte girevoli, si resta per una legislatura o più e poi si torna alle vecchie funzioni giudiziarie, creando una commissione che non fa bene né alla politica né alla magistratura. Bene, se ora Grasso cambia questa regola non scritta ma inopportuna, nessun altro magistrato dei tanti che si candidano alle elezioni potrà essere da meno. Questo, almeno se c'è una logica e un rispetto delle istituzioni, che è o dovrebbe essere basilare negli uomini di legge. Il Tesoro ha venduto quasi 5,9 miliardi di euro di BTP a 5-10 anni, registrando un lieve rialzo dei tassi. Oggi giornata in rosso per le borse europee. Allora ci racconta tutto in diretta Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Allora, c'è anche da dire che soprattutto per il mese di dicembre molte piazze finanziarie hanno avuto delle buone performance, per cui i gestori, oggi probabilmente gli operatori, incassano e si avvicinano alle festività di Capodanno con un clima un po' più tranquillo, chiudendo le proprie posizioni, e dunque oggi mercati negativi. In ogni caso c'è anche un po' di nervosismo per l'attenzione molto alta che resta puntata sulla crisi fiscale. americana. Allora, abbiamo Parigi in ribasso dello 0,9% anche dopo la diffusione del dato sul prodotto interno lordo del terzo trimestre, che è stato rivisto al ribasso. Francoforte meno 0,52, Londra meno 0,29, Milano meno 0,62%. Parlavi, Piera, poco fa dell'asta dei titoli di Stato di questa mattina. Il Tesoro ha venduto 5 miliardi 880 milioni di euro di BTP a 5-10 anni, l'ultima asta dell'anno. Ce n'è stata già un'altra ieri di BTP, di bot a 6 mesi e di CTZ. Oggi, esattamente come ieri, è stato registrato un lieve rialzo dei tassi di interesse. Il rendimento sulle BTP a 5 anni è salito al 3,26% dal 3,23% dell'asta di novembre. Il rendimento sul titolo a 10 anni è salito al 4,48% rispetto al 4,45% di un mese fa. Tutto questo in una giornata in cui lo spread è ripreso a salire, è arrivato a 325 punti base e il rendimento del titolo decennale sul mercato secondario è arrivato al 4,56%. Oggi aspettiamo anche, oltre a novità politiche sulle fronte americano, anche numerosi dati macroeconomici statunitensi e ancora una volta un monitoraggio attento all'andamento del mercato immobiliare. Per ora è tutto. Grazie Deborah. Allora, dal 1 gennaio scattano gli aumenti del 3% per adeguare le pensioni al costo della vita. Aumenti che però lasciano fuori molti pensionati, come ci racconta Carla Cantone, segretario generale della SPI-CGIL. Lasciano fuori almeno 10 milioni di persone, cioè quelli che hanno una pensione oltre i 1.400 euro lordi. Però la fascia che va da 1.400 lorde a 2.400 lorde sono lavoratori e lavoratrici che hanno versato oltre di 40 anni di contributi in continuazione ed hanno già perso, prima con le decisioni di Berlusconi, poi con il governo Monti, hanno già perso in un anno mediamente 400 euro all'anno che si trascineranno per tutta la vita, e questa è una questione che non può continuare ad essere così. Quindi cosa chiedete? Che venga rimosso il blocco almeno fino a 8 volte il minimo, che vuol dire almeno fino a 3.000 euro lorde. Poi oltre 3.000 euro lorde si tratta di discutere se per caso conviene per un certo periodo mettere una patrimoniale, ma che non può riguardare solo le pensioni, deve riguardare tutti i redditi, se vogliamo far cassa e fare equità. Andiamo all'estero con lo stop in Russia alle adozioni di bambini da parte di genitori americani. Dopo la firma di Vladimir Putin, la legge che vieta le adozioni di orfani russi da parte di cittadini americani entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio. Non vedo ragioni per non firmare, ha detto il presidente russo, dando via libera a un provvedimento che chiude una porta ai 650.000 bambini che vivono negli orfanotrofi russi, il numero più alto al mondo. Più di 1.000 di loro ogni anno venivano adottati da famiglie americane, anche se disabili, dunque anche nei casi in cui un bambino non viene invece accolto nelle famiglie russe. Il provvedimento è la risposta di Putin e del Parlamento russo alla legge Magnitsky, l'atto di accusa di Washington contro i funzionari russi ritenuti responsabili della fine di Sergei Magnitsky, un avvocato che aveva attaccato la corruzione nel Ministero degli Interni e che sarebbe morto in carcere per le percosse e la mancanza di cure. L'unico imputato per la sua morte è stato assolto questa mattina, la seconda risposta del Cremlino all'America. La difesa del prestigio della Russia dalle ingerenze straniere sarà sempre al primo posto per Putin, anche se, fanno notare i suoi critici, a pagare saranno dei bambini russi senza famiglia. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. 8 marinai americani che parteciparono ai soccorsi dopo lo tsunami del 2011 in Giappone hanno citato in giudizio la TEPCO, la società elettrica che gestisce la centrale nucleare di Fukushima. L'accusa è di averli esposti alle radiazioni mentendo sui reali rischi. Hanno chiesto un indennizzo di 10 milioni di dollari a testa. Si lavora senza sosta per evitare negli Stati Uniti il fiscal cliff, il cosiddetto precipizio fiscale. Il dialogo è ripreso. Barack Obama, dopo essere rientrato in anticipo dalle sue vacanze alle Hawaii, ha negoziato tutta la giornata di ieri con i repubblicani, continuerà a negoziare oggi. Il tempo sta per scadere, il 31 dicembre è ormai dietro l'angolo. Per ora non si vedono degli spiragli concreti per poter raggiungere un accordo onnicomprensivo che eviterà di cadere al di là della rupe fiscale, del fiscal cliff. Ecco, ci saranno però degli accordi parziali e soprattutto c'è l'aspettativa che con l'arrivo del nuovo congresso il 3 di gennaio, quando si insedierà, lo ricordo, il congresso che è stato eletto alle elezioni di novembre, forse l'atmosfera politica sarà meno tesa. In fondo, rimandare di qualche giorno la possibilità di un accordo, dicono gli esperti, non sarà un dramma. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. L'America perde un altro eroe di guerra, morto a Tampa il generale Norman Schwarzkopf. Il commento di Alberto Negri. Il generale Norman Schwarzkopf, che nel 1991 comandò l'operazione Tempesta nel deserto, fu testimone della storia oltre che un protagonista, peraltro più controverso di quanto possa trasparire oggi nei ricordi ufficiali. A 12 anni l'adolescente Norman si trova a Teheran dove il padre, Norman Senior, è uno dei protagonisti del colpo di Stato contro il primo ministro Mossadegh che aveva nazionalizzato il petrolio. Il nome degli Schwarzkopf è scolpito nella memoria degli sciiti. Se il padre fu protagonista del colpo di Stato del 1953, il figlio nel 91 firmò l'armistizio con i generali di Saddam Hussein. Nell'accordo però si dimenticò di vietare agli elicotteri iracheni il sorvolo a nord delle zone curde e a sud delle province a maggioranza sciita. Fu così possibile per il Rais far fuori decine di migliaia di iracheni e riprendere il controllo. Schwarzkopf, che apparivano ai giornalisti gioviale e rassicurante, si giustificò in seguito dichiarando che c'era stato un equivoco nella traduzione. Un incidente da Lost in Translation non molto credibile. In Medio Oriente non si dimentica nulla, dovrebbero tenerlo presente le potenze da est a ovest che in questo clima da nuova guerra fredda si occupano della Siria per trovare una via di uscita a un massacro che eviti, come accaduto troppe volte in passato, di prepararne altri. Gravi conseguenze per una bravata nell'Appennino reggiano. Ieri un 17enne è entrato negli impianti sciistici ormai chiusi, ha preso un materasso di protezione dell'impianto di innevamento artificiale e si è lanciato come su un bob giù per la pista, andando ad urtare violentemente. Ora è ricoverato in prognosi riservata. A Madesimo, in Valtellina, due sciatori che si erano lanciati in un fuoripista e rimasti bloccati sul ciglio di un dirupo sono stati salvati e poi multati. Portati a valle con corde di sicurezza dovranno ora pagare 50 euro di multa. Depositata a Natale la sentenza di separazione non consensuale fra Veronica e Silvio Berlusconi. 100.000 euro al giorno, 3 milioni ogni mese. In totale 36 milioni di euro all'anno. È quanto Silvio Berlusconi dovrà versare di alimenti alla ex moglie Veronica Lario. L'ex premier manterrà però la proprietà della villa di Macherio che vale intorno ai 78 milioni di euro. È finita così. Dopo oltre 3 anni la causa di separazione non consensuale tra Berlusconi e la Lario con una sentenza depositata in gran segreto nel deserto dei giorni di Natale dalla nona sezione civile del Tribunale di Milano. Una somma, quella riconosciuta all'ex moglie di Berlusconi, che tiene conto del fatto che esce dalla causa senza proprietà immobiliari. Un terzo importante elemento della sentenza è che entrambi i coniugi hanno rinunciato a chiedere la separazione con addebito di colpa all'altro. Veronica Lario, lo ricordiamo, aveva chiesto il divorzio il 3 maggio del 2009 e aveva presentato una richiesta di 43 milioni di euro all'anno, ma la controfferta di Berlusconi era stata inizialmente di 10 volte inferiore, ovvero non oltre i 300.000 euro al mese. L'intesa non venne raggiunta e nel frattempo la Lario, nel settembre del 2010, sfumata l'ipotesi di vedersi riconosciuto l'usufrutto a vita della residenza di Macherio, dovette lasciare Villa Belvedere. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le autorità indiane hanno vietato i lettini sulle spiagge di Goa, l'ex colonia portoghese, perché disturbano le tartarughe marine che nella stagione invernale depongono le uova sul litorale. Durante le feste natalizie, che rappresentano il picco della stagione turistica, centinaia di sdraio sono state sequestrate lungo i 100 km di costa. La decisione dopo che il Times of India aveva denunciato una forte diminuzione dei nidi delle tartarughe marine. L'Istituto Superiore di Sanità boccia le sigarette elettroniche. Uno studio dell'Istituto reso noto dal Ministero della Salute evidenzia possibili effetti dannosi per quelle contenenti nicotina, specie per i giovani, oltre alla non provata efficacia come metodo per la disassuefazione dal fumo. Roberto Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori, al microfono di Adriana Fracchia. Non è ancora di provata efficacia né innocuità. Finora gli studi che sono emersi, anche se non definitivi, mostrano che c'è sicuramente una riduzione del danno per una netta minor emissione di sostanze tossiche dalla sigaretta elettronica rispetto alla sigaretta normale. L'obiettivo della sigaretta elettronica può essere quello di ridurre il danno e la cessazione del fumo. Direi che a chi la sta usando con successo per fumare molto meno, addirittura smettere, io la lascio dicendo magari gradatamente di usare sempre meno nicotina. Non sono normate, non sono veramente controllate. Speriamo che adesso si venga fatta finalmente chiarezza e si decida di quale può essere consentita la vendita e quale no. A me tutto quello che fa fumare meno e quindi danneggiare meno il fumatore, peggio ancora se è già malato, ben venga. Però in quanto medico posso prescriverlo solo che ha dimostrato di poter essere dato dal sistema sanitario. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.